Mr. President, distinguished heads of state and government, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to address the United Nations General Assembly for the first time as the leader of the people who first developed the values that most of the modern world embraces: democracy, individual rights, equal justice under law. Democracy, individual rights, equal justice under law. Democracy, individual rights, equal justice under law. Democracy, individual rights, equal justice under law. Democracy, individual rights, equal justice under law. Antonio, ci sei? Sentite? Sì, forte e chiaro. Sì, sì, ci sono. Ciao a tutti, io sono Giulio, dall'altra parte del vetro alla parte tecnica c'è Tony Lyon. Una puntata un po' speciale per parlare d'altro, ci spostiamo dall'Italia per andare in Grecia. Siamo in collegamento telefonico con Antonio Nigro, attivista indipendente da Agropoli, impegnato sui temi che riguardano l'integrazione, l'accoglienza e soprattutto l'ibridazione tra culture e tra culture diverse che uniscono il Mediterraneo. E proprio dal Mediterraneo, dalla Grecia, da Lesbo ci sta parlando. Antonio, buonasera. Buonasera a tutti e grazie per darci modo di fare questo racconto. Precisamente adesso siamo alloggiati in una struttura nelle vicinanze del campo Moria, che è uno dei più grandi campi d'accoglienza dell'Egeo, quindi pochissimi chilometri dalla Turchia. Qui sono cominciate le migrazioni appunto dalla Turchia già nel 2014, quindi a nord dell'isola si vedono perfettamente le coste della Turchia. In 20 minuti arrivavano questi barconi, questi gommoni anzi, che riuscivano a raggiungere le coste greche, quindi in prevalenza persone che scappavano dalla Siria inizialmente, tantissimi siriani. Un campo che ospita 25.000 persone, quindi in un stato assoluto di disagio. Tu da quanto tempo sei lì adesso? Quanti giorni sono? Noi siamo qui da 10 giorni, però operiamo già sull'isola come attivisti, con attivisti anche provenienti da tutta Europa, già appunto dal 2015. Ad oggi, come dicevo, nel campo sono presenti 25.000 persone, di cui un 70% prevalentemente afghani, quindi in fuga dall'Afghanistan, un 25% di siriani e poi anche afghani, iraniani, insomma varie provenienze. Quindi al momento sono in vigore delle misure molto restrittive, nel senso che alle commissioni che si tengono appunto all'interno del campo difficilmente si riescono a ottenere dei visti per l'Europa, quindi l'Europa ha praticamente chiuso le sue frontiere e ci troviamo in questa situazione paradossale, perché in virtù degli accordi con la Turchia che tutti conosciamo, queste persone che avrebbero assolutamente diritto a una protezione internazionale, perché si tratta di siriani e afghani che scappano appunto da conflitti, si ritrovano visti negare la loro protezione internazionale. Quindi in seguito a questi dinieghi vengono respinti verso la Turchia, quindi siamo di fronte a un vero e proprio respingimento verso la Turchia. Antonio, l'età delle persone all'interno del campo qual è? All'interno del campo molti giovanissimi, ma anche anziani, ma tantissimi ventenni, quindi si tratta di veramente di persone giovanissime, ma anche tantissimi minori, attenzione, perché stiamo parlando all'incirca di un 20% di minori che vivono in uno stato di assoluto disagio, perché ovviamente le strutture non sono assolutamente idonee, stiamo parlando di tende o capanne fatte con cianfrusaglie varie, legno, pezzi di plastica, e vi assicuro che sull'isola fa veramente freddo. Cosa servirebbe qui? Diciamo che esistono principalmente due emergenze. Spesso in questi giorni ci siamo trovati a parlare con queste persone che chiedevano appunto: noi non vogliamo vestiti o coperte, vogliamo soltanto che vengano rispettati i nostri diritti. Quindi al di là dell'emergenza sanitaria, perché c'è una vera e propria emergenza sanitaria, addirittura in questi giorni abbiamo fatto dei pronti soccorsi all'ospedale. Ci sono state negate le cure per esempio ieri per due minori afghani, ci siamo visti praticamente cacciare via dall'ospedale. Quello che c'è assolutamente bisogno, di cui c'è assolutamente bisogno, è un legal team, quindi qualcuno che si occupi di adire alla Corte Europea per i diritti umani, quindi alla CEDU. Antonio, questo è il vostro obiettivo primario lì, anche perché non vengono riconosciuti i diritti fondamentali a questo punto, da quello che racconti tu, alle persone presenti nel campo, non vengono rispettate anche le più banali norme di gestione di un campo profughi, di un hotspot, perché tu mi dicevi di 25.000 presenze, quante persone dovrebbe invece accogliere il campo? Stiamo parlando di un campo che inizialmente avrebbe dovuto ospitare 7.000 persone, però ovviamente qualche anno fa si riusciva in qualche modo, soprattutto chi aveva diritto ad ottenere una protezione internazionale, ad andare verso l'Europa. Quindi stiamo parlando ancora quando l'Europa accoglieva. Adesso il campo si è in pratica allargato a dismisura, perché anche le reti di protezione che erano intorno al perimetro del campo sono state completamente abbattute, quindi nel campo sono presenti questi container, diciamo, poi si allarga da macchia d'olio con varie strutture fatte in prevalentemente sono tende. La situazione sembra, diciamo, riporta alla mente l'altra porta del Mediterraneo, Lampedusa, un'altra isola dove è forte la presenza di stranieri. Le due condizioni secondo te sono in qualche modo paragonabili o sull'isola? Assolutamente no, perché Lampedusa era comunque un approdo e poi comunque venivano ovviamente smistati principalmente in Sicilia. Qui la situazione è completamente diversa, perché stiamo parlando veramente di persone bloccate su quest'isola senza nessuna possibilità di via di fuga. Democracy, individual rights, equal justice under law. Siamo a Lesbo, isola greca di frontiera, separata dalla costa turca da soli 10 chilometri di mare. Quest'anno in Grecia sono arrivati più di 45.000 profughi, 11.500 solo a settembre. È il dato più alto mai registrato da quando l'Europa, 3 anni fa, ha siglato l'accordo con la Turchia per fermare l'ondata migratoria. Ma una volta arrivati qui, in Europa, che fine fanno queste persone? Appena i migranti sbarcano a Lesbo, la polizia li porta nel campo di Moria, l'hotspot più affollato d'Europa. Questo campo è strutturato per accogliere al massimo 3.100 persone. Adesso sono 13.000, oltre 13.000. Sono tutti qua con l'obiettivo di richiedere la protezione umanitaria perché fuggono da contesti in guerra. In seguito agli accordi dell'Unione Europea e la Turchia, queste persone sono obbligate a richiedere l'asilo e esaurire tutto il loro processo sull'isola. Rimangono bloccate per mesi, anche anni. Ci sono richieste d'asilo, interviste d'asilo fissate a 2020-2021. Questo è descritto come, è descritto da tutti gli operatori, dei giornalisti che vengono, come il peggiore campo d'Europa. Le persone ammassate una sull'altra, tende divise in quattro con 25 persone dentro, container con 5-6 famiglie. La mattina le famiglie iniziano a fare la coda, si mettono in coda qua fuori dalla cancellata, già dalle 7 del mattino al pieno. Qua i panni stesi, l'immondizia, i fili elettrici così aperti. Qua spesso ci sono incendi come quello di domenica. Mio figlio ha 6 mesi. È sempre malato. Ora ha la febbre e problemi allo stomaco. È molto dura per me stare qui. La gente in questo campo muore. Ho paura per me e per mio figlio. Non mi importa in quale paese dell'Europa finirò, Germania, Belgio, Italia. Basta andare via. Non mi sento al sicuro qui. La notte non riesco a dormire, sto perdendo la testa. Di solito dopo un evento traumatico quello che si cerca è un posto dove si può ricominciare, cullarsi un po' e curarsi. Moria non lo permette, semplicemente. Non c'è né la sensazione in questo posto per nessuno di sicurezza né di dignità, è un continuo sopravvivere. Stanno dicendo liberi da Moria. Il ragazzo ha un cartello con scritto liberateci da questa prigione. Moria è un inferno. Stiamo protestando per le condizioni in cui viviamo. C'è stato un incendio dentro il campo e sono morte delle persone. Gli aiuti sono arrivati tardi, la polizia ci ha gridato che eravamo tutti animali, non esseri umani. Antonio, noi stiamo per preparare un podcast su questo progetto di The Drama. Perfetto. E tu sei il nostro uomo all'Avana. Volevo anche raccontare il clima di tensione che c'è sull'isola da parte degli abitanti. Dimmi, senti, cosa è successo? Sì. Quindi ci sono state delle aggressioni da parte di gruppi neofascisti. Io personalmente me la sono cavata bene perché avevano bloccato una strada di accesso al campo e una settimana fa ci hanno distrutto una macchina. Dopo 3 giorni fortunatamente avevo visto che avevano bloccato questa stradina che porta al campo, addirittura avevano acceso un falò in mezzo a questa strada. Mi sono fermato a 30 metri e ti assicuro che è stata veramente fortunatamente ho girato la macchina velocemente e sono riuscito a fuggire. Ieri sera Nawal Soufi, attivista italo-marocchina che da anni si occupa dei diritti dei migranti anche sull'isola di Lesbo, stava attraversando in auto il villaggio di Moria per raggiungere il vicino campo che ospita in condizioni drammatiche 20.000 migranti. Mi sono ritrovata con circa 50 persone che hanno bloccato la mia macchina in una strada piccola e con le spranghe hanno fatto tutto quello che hanno fatto alla mia macchina, hanno aperto la porta, mi hanno strattonata. Purtroppo proprio nel momento in cui hanno aperto la porta mi hanno anche colpito nel braccio. E tutto questo è durato per circa 10 minuti. Abbiamo visto una macchina della polizia emborghese che non è intervenuta in alcun modo. Dopo circa 10 minuti è arrivata una moto della polizia. Siamo stati poi scortati fuori con grande difficoltà. Probabilmente opera di militanti di estrema destra, l'aggressione contro Nawal non è stata l'unica della nottata. Un gruppo di giovani vestiti di nero dopo una ronda antimigranti nel centro di Mitilini ha dato l'assalto, fallito anche ad un bar frequentato da cooperanti. Le uniche persone che mi hanno difesa erano i migranti. 3 persone insieme a me nella macchina hanno fatto da scudo, hanno messo le braccia così su di me e abbiamo continuato ad aspettare che il tutto finisse. Su un'isola dove ormai la tensione è altissima anche per via delle politiche del nuovo governo, c'è chi soffia sull'esasperazione dei residenti. democracy, individual rights, equal justice under law. Quindi, Antonio, quindi secondo te c'è una forte responsabilità dell'Unione Europea su come stanno gestendo, su come si sta scegliendo di tenere queste persone, rispetto anche al ruolo forse che ha Frontex sui soccorsi, per cui sicuramente è un luogo su cui serve portare luce e attenzione da parte di tutti. Forse se ne sta incominciando a parlare di più nell'ultimo periodo, grazie anche al lavoro di racconto che ci stai facendo tu anche attraverso i social network, con la documentazione video e fotografica della vita all'interno del campo e le situazioni, le condizioni drammatiche in cui vivono queste persone. C'è un progetto artistico, culturale in questo caso, che ti ha portato lì, ci puoi dire di cosa si tratta? Progetto Europe for Lesbo nasce dall'idea di un'installazione che viene fatta qui il mese scorso nel cimitero dei Salvagente di Lesbo, che ho personalmente visitato, che si trova a nord dell'isola, quindi nella parte vicinissima alla Turchia, dove avvenivano il 90% degli sbarchi. Quindi c'è questo spazio in cui vengono accumulati poi tutti i salvagente rimossi dalla costa, ed è veramente una cosa che sconvolgente, guarda, davvero, una montagna di salvagenti, e se tu pensi che ogni salvagente è stato indossato poi da una persona. Quindi, ritornando al progetto, nasce questa installazione in questo spazio, viene fatto un video denuncia. L'artista, lo ricordiamo, che chiama una call action, quindi da questo video in cui si vede il premier greco che parla di diritti, uguaglianza e democrazia, poi c'è questa sorta di provocazione in cui si invitano tutti poi a raccontare la storia attraverso il social Instagram. Potete trovarlo tranquillamente, si chiama Europe for Lesbo. Come Radio Antenna Migrante non siamo ancora su Instagram, noi abbiamo i tempi dilatati sui social network, ma ci attrezzeremo anche per questo. L'artista, ricordiamo, è The Drama. L'artista è The Drama, che è un artista sconosciuto. appunto, ha portato. Noi abbiamo potuto in radio incominciare questa puntata proprio con i primi secondi del video, dove si ascolta la voce del premier greco. Ecco svelato il mistero della voce. Durante il giorno, quali sono le attività principali che state portando avanti nel campo? Al momento siamo concentrati su due cose principali. Abbiamo un avvocato che ci sta curando appunto questi adempimenti, insomma, alla Corte Europea. Ovviamente abbiamo in carico una quindicina di ragazzi, non di più, questo è quello che si riesce a fare, quindi questa è una delle emergenze. Al momento abbiamo avuto contatti con un altro team di avvocati dall'Italia, che fortunatamente ci darà una mano, e poi l'intervento, diciamo, sul campo è principalmente fatto di pronti soccorsi all'ospedale. Ripeto che spesso chiude le porte, purtroppo. No, io accompagno le tue parole che sto ascoltando stasera alle immagini che stai pubblicando tu e gli altri attivisti che sono presenti sull'isola, e chiaramente il racconto è da pelle d'oca, perché è una situazione. Guarda, scusa se ti interrompo, Giulio, io oggi pensavo proprio a questo. è difficile, forse è difficile anche dai social capire, perché poi è una cosa che vista poi direttamente sul sul posto è veramente, io pensavo a un termine, a quale termine avrei potuto usare, un termine che mi viene in mente è allucinante, perché sembra quasi come se vivessi in uno stato di allucinazione perenne, veramente allucinante, il termine giusto è allucinante. Sì, chiaramente non sembra di stare nell'Unione Europea nel 2020. No, assolutamente, non sembra questo il modo che tutti ci immaginiamo quando immaginiamo l'accoglienza a persone, a famiglie, a bambini, a anziani che stanno scappando da una guerra. Antonio, chi volesse sostenere questo tipo di iniziative dall'Italia, al di là della call del 20 febbraio, della condivisione comunque di questi contenuti, un aiuto concreto come potrebbe arrivare per sostenere questo tipo di iniziative? Un aiuto concreto in termini di denaro fa sempre bene, possono contattare tutti Nawal Sufi, non so se conosci l'attivista italo-marocchina. Comunque possiamo inserire il contatto si trova facilmente sulla radio, sì. Antonio, io ti ringrazio. Sì, volevo chiudere, se mi permetti, con un invito, perché era una delle cose che mi chiedevo in questi giorni, dove sono le grosse organizzazioni ONG che si occupano di diritti umani, perché all'interno del campo non c'è più nessuno. L'ESMA ha vissuto un momento di notorietà che chiamava qui giornalisti, fotografi, in qualche modo è stata anche un po' usata. Ora l'ESMO è praticamente dimenticata, quindi mi chiedevo, non vuole essere una denuncia ma un invito veramente, associazioni per i diritti umani, Amnesty, chiunque, perché qui veramente succede dell'incredibile. Cioè non ci sono neanche le maggiori tipo Medici Senza Frontiere o... No, assolutamente, Medici Senza Frontiere all'esterno del campo, un campo piccolino, riesce a gestire una parte insomma delle problematiche del campo, soprattutto con i bambini, ma poi al di là di questo non c'è nulla veramente. Bisognerebbe veramente cominciare a denunciare quello che succede qui, che sta succedendo qui. Speriamo di aver portato un pezzettino di racconto in più e anche ad altre persone che non ne sono a conoscenza. Spero che tu riesca a tornare tutto intero e a continuare a fare le cose buone per le altre persone che state facendo. Quindi grazie veramente ancora per tutto. Al nome io ringrazio voi, del genere umano. È importante diffondere, cercare di fare in modo che se ne parli, veramente. Lo faremo, grazie lo tanto. Stiamo facendo. Un abbraccio, buona serata. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.